Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, una giornata, una doppia giornata, quella di sabato e domenica, che ha segnato non una crisi, certamente, questo sarebbe un po' eccessivo, ma una flessione della serie. Anche i grandi soffrono, anche i ricchi piangono, perché poi se l'Inter ha perso, la Juventus e il Milan hanno pareggiato, e tra l'altro il Milan è stato anche preso discretamente a pallate dal Bari alla seconda eccellente partita a San Siro su due, perché ha imposto il pari meritando anche di più sia all'Inter che al Milan. Beh, insomma, significa che qualcosa di nuovo c'è, perlomeno in questa fase iniziale di stagione. Significa che nemmeno dalla parte delle grandi riesce, con tre partite in sette giorni, riesce a esserci continuità di rendimento, e questo è un dato precoce, perché ripeto, siamo soltanto a un mese di campionato, o poco più, ma è un dato comunque che qualche piccolo significato ce l'ha. Oggi ci sono notizie, commenti, interviste un po' di ogni genere. Io comincerei da quelle della domenica, perché mi pare che il capitolo più nuovo, insomma, di quelli che si sono letti ieri sia quello voluto dal presidente del Napoli, De Laurentiis. Per Paolo Marino rappresenta 5 anni della mia vita, non li dimentico, lo ringrazio per quanto ha fatto per il Napoli e per quanto ha fatto per me, i sacrifici ai quali si è sottoposto, e sicuramente la sua vita professionale andrà avanti. Io non ho mandato giù i 2 anni di Serie C che si potevano evitare, il fatto che abbiamo comprato a cifre assolutamente fuori mercato determinati giocatori. Ho chiesto direttori sportivi che non sono venuti, per evidentemente gelosia. Ho chiesto di avere una rete mia personale di osservatori di mercato in tutto il mondo, che non sono arrivati. Evidentemente ci sono degli interessi che non si sposano con la mia mentalità o idea generale di come si dovrebbe fare calcio. Chax Italia ha titolato La Stampa stamane a proposito di questa performance del presidente del Napoli, che comunque ha inaugurato la prassi del licenziamento in diretta TV, e se non l'ha inaugurata comunque l'ha, perché forse qualcosa in passato poteva esserci stato, l'ha approfondita, l'ha perfezionata, non c'è dubbio. Liquidato il direttore generale, con il quale avrà un incontro oggi a Roma, è poi toccato in una fase successiva anche a Donadoni, che si è sentito criticare robustamente sul modulo. Tra le altre cose che De Laurentiis ha detto, c'è che per ritoccare un pochino la squadra, anche con consigli tecnici, è toccato a lui, povero, scendere in spogliatoio nell'intervallo della partita con il Siena. Alla fine sono state ovviamente riferite queste frasi a Donadoni, che le ha commentate così. Io non ho sentito così, le parole dette in questo modo sono una cosa, le parole dette come le ho sentite io sono diverse. Ha chiesto con Reia, farebbe la stessa cosa, e ha detto in quel momento credo che fosse la cosa più giusta da fare, oggi probabilmente non cambierei, quindi non è così, è un po' diverso. Anche questo con un po' di buona volontà, è vera. Con molta buona volontà potremmo invece sentire il momento del Napoli visto da Lavezzi. Della critica per voi, no? Perché noi stiamo lavorando benissimo, sinceramente lo staff tecnico è molto professionale, lavora molto bene ogni giorno, e magari siamo noi che non riusciamo a fare le cose che vuole il mister in campo, no? Perché dopo, secondo me, lui e tutto il suo staff sono bravissimi a lavorare. Di Natale, super. Dunque, per trovare un capocannoniere che dopo 6 giornate di campionato avesse 8 gol in scarsella, bisogna tornare allo 98-99, quindi esattamente a 11 anni fa, non a 10, quando con 8 gol dopo 6 partite c'era Batistuta al comando della classifica, che però quell'anno non riuscì a vincere la classifica cannonieri, che andò a Marzio Amoroso dell'Udinese con 22 gol, seguito proprio da Batistuta, che chiuse a quota 21. In attesa dei vostri interventi del lunedì, come sempre, all'800240024, aggiungiamo qualche altro capitolo dopo quello, direi, di costume, no? Napoletano, di De Laurentiis, non napoletano. e andrei su Milan Bari, cioè sulla lezione di calcio autentica che il Bari ha impartito al Milan. Il Bari aveva già fatto un figurone alla prima giornata a San Siro contro l'Inter, anche in quell'occasione era andato molto, molto vicino alla vittoria, soprattutto nel finale di partita. Ieri invece la gara l'ha dominata dall'inizio alla fine e semmai ha avuto una leggera flessione finale, non tanto atletica, perché quella l'ha avuta il Milan, quanto forse di convinzione, di un po' di leziosità, con un po' più di senso pratico. Il Bari certamente ieri sera avrebbe portato via la vittoria da San Siro, e il fatto che poi nelle dichiarazioni del dopopartita i giocatori baresi fossero dispiaciuti di non aver vinto come meritavano a San Siro, beh, la dice lunga su che partita è stata. Sentiamola ricostruita da Leonardo. Difficile, abbiamo faticato tanto, dobbiamo essere realistici, sicuramente abbiamo subito una squadra che conoscevamo, sapevamo come giocavano, ma sicuramente i due esterni, che è un po' la base del loro gioco, facevano le due fasi in un modo molto molto positivo e abbiamo fatto tanta fatica a coprire il campo. Dopo abbiamo fatto fatica a trovare, diciamo, lo spunto, l'azione di attacco, anche se abbiamo creato, ma non erano giocate elaborate, abbiamo fatto fatica alla gestione, è stata una prestazione, diciamo, complessivamente molto difficile. Migliore in campo del Milan Storari, senza alcun dubbio. In teoria inizio stagione sembrava un po' il punto debole della squadra, non solo ieri, ma ieri in particolare è stato certamente quello che l'ha tenuto in piedi. Vi dicevo delle recriminazioni baresi, sentiamo Ventura. Sarebbe stato perfetto se avesse buttato dentro la palla, allora sì che sarebbe stata una partita quasi perfetta. Ci è mancato il colpo del KO, le prestazioni comunque sono state importanti, bravissimi giocatori, soprattutto i più giovani, sia in fase offensiva ma soprattutto nella chiusura degli spazi. Era una partita che, al di là del risultato, era per noi importante capire se c'era continuità e soprattutto crescita nei giocatori più giovani. Avere davanti una punta e due trequartisti come Ronaldinho e Seedorf significava, per i centrali che sono degli 88, c'è capacità di lettura delle situazioni, distanza, spazi. Bravi perché stanno crescendo, devono solo, spero che questa partita serva loro per credere sempre di più nelle loro capacità, che sono tante. E se vanno avanti con l'umiltà con cui stanno lavorando fino adesso, secondo me a fine anno si sentirà parlare di loro. E questo era Ventura, il bravo allenatore del Bari, a proposito del quale Bari non dimenticherei i meriti di Antonio Conte della passata stagione, perché insomma questa squadra era stata impostata allora e aveva fatto un campionato di B prima brillante e poi addirittura trionfale, e adesso si vede come questa squadra molto giovane in realtà avesse margini di miglioramento, poi con qualche rinforzo che è arrivato, ma qualcuno anche se n'è andato via. Una dichiarazione di Lippi da Coverciano, dove stamane c'è stato un convegno di studi sulla SLA, sulla sclerosi laterale amiotrofica, un convegno medico, scientifico. Lippi a margine ha detto: sono stato nella Sampdoria per 20 anni e mi fa piacere trovarla lassù in testa alla classifica. Ha buoni giocatori, un ottimo allenatore. Il fatto che ci sia oggi campionato in testa una squadra che non fa parte delle big non mi stupisce. Anche l'anno scorso, nelle prime giornate in vetta alla classifica, c'era la Lazio. Il fatto che non giochi la Coppa e la Sampdoria può essere un vantaggio, anche se strada facendo i valori veri verranno fuori. Ha chiamato Daniele da Bologna, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Una considerazione veloce. Lei ritiene sia già il momento di screditare l'ondata di effetto Guardiola in giro per il nostro campionato, relativo ai due tecnici che lei sa gestire due tra le squadre più blasonate d'Italia? Cioè, siamo di fronte a un fenomeno di ritorno legato al fatto che non soltanto bisogna essere giovani, ma, come detto da alcuni, bisogna anche avere un po' di esperienza per gestire un po' meglio quei disastri che i due ragazzi hanno fatto sulle panchine di Milan e Juve in queste settimane, oppure pensa che possiamo perdere ancora un po' di tempo? Io la penso che, come Gasperini, la penso come ieri il tecnico del Bologna ha detto, che avere 400-500 panchine consente di fare un po' meno, quell'interpretazione di partite, quei cambi in corsa, quella velocità di comprensione che ha fatto di queste due squadre all'inizio, molti molti errori sommati che secondo me comporteranno anche dei cambi di panchina. Suo parere mi interessa molto, grazie mille. Daniele, io penso che sia un po' presto comunque la sesta giornata per trarre delle conclusioni, no, cioè non è mai troppo tardi per fare delle valutazioni, non è mai troppo presto per fare delle valutazioni, ma delle conclusioni mi sembrerebbero premature. Ieri ci sono indubbiamente delle, nel caso di ieri ci sono delle riserve sul conto di entrambi i neofiti, no? Perché stiamo poi parlando, se non ho capito male, di Ferrara e di Leonardo. Ferrara lo ha ammesso alla fine, sinceramente, ha detto probabilmente ho sbagliato anch'io, o forse certamente, perché ho fatto ricorso a troppi convalescenti insieme, o comunque a troppi rientranti, e questo mi sembra oggettivamente vero. E quindi insomma la squadra ne ha risentito, non è stata sicura, non è stata in grado di chiudere la partita, anzi nel secondo tempo la Juventus ha molto sofferto e il pari del Bologna è arrivato all'ultimo minuto, ma era strameritato. C'è un'altra prova, non a carico di Ferrara, ma un'altra riflessione da fare. Fuori casa, dove la Juventus ha la personalità per imporsi, ma non c'è l'obbligo da parte di una squadra di prendere in mano la situazione e di fare la partita, come si dice oggi, in maniera assoluta, la Juventus ha giocato bene e ha ottenuto grandi risultati. Le due vittorie dell'Olimpico e il pareggio di Genoa, molto largo, nel senso che era una partita quella che la Juve meritava nettamente di vincere. In casa il contrario, in casa dove invece contro squadre piccole, perché finora ha trovato Chievo, Livorno e Bologna, in casa fa molta fatica ad assumere e soprattutto a mantenere l'iniziativa. Aveva già avuto un sacco di occasioni, col Chievo ha vinto con mille parole, con Livorno ha fatto molta fatica e ha lasciato troppe palle gol agli avversari, Buffon migliore in campo. Ieri questa situazione si è ripetuta, quindi questo mi sembra un segnale. Leonardo, dato che l'ho fatta un po' lunga, darei spazio ad altri ascoltatori, tanto il Milan risalta fuori sicuro, e quindi su Leonardo mi esibisco, sto scherzando ovviamente, in un'altra occasione. Cristiano, provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io volevo parlare di questa Juventus, io sono tifoso juventino naturalmente, e già dalla prima giornata io non vedo gioco nella squadra, nel senso che non ha un'impronta. Ferrara, come ha detto lei prima, ha messo i suoi errori, ma mi ricordo che anche la vittoria dell'Olimpico con la Roma è arrivato sì un 3-1, ma mi ricordo che se finiva 2-2 era giusto, era normale, perché la Roma ha preso anche un palo con Totti, se entra quel gol lì è finita lì, e lì la cambiamo poi tutto quanto. Ferrara incomincia già a dire che sbaglia un po' di più. Io non lo vedo molto sicuro in panchina, tarda a fare certi cambi, non legge la partita fino in fondo, non lo so. E poi un'altra cosa, a rientro di Cocò, chi fa fuori? Marchisio o Camoranesi? Qual è la risposta? Ma secondo me nessuno dei due, perché mi sembrano i due giocatori più in forma della Juventus attuale. Io credo che la Juve sconti da una parte la sterilità prolungata di Amauri, no? Perché mi pare che non segni da febbraio, insomma, per uno che gioca punta, per quanto lavoro faccia, per quanto combattente sia, se uno non la butta dentro da febbraio e siamo a fine settembre, che insomma comincia a essere un problema. Mi pare che sia Camoranesi che Marchisio, ciascuno con le sue caratteristiche, siano gli uomini più rassicuranti su cui può contare la Juventus in questa fase. Poi non so, guarirà Diego, poi si vedrà. Ma per il momento di questi due non mi pare si possa fare molto a meno. Da Bari ha chiamato Luigi, buongiorno. Buongiorno a voi e un saluto allo studio. Io faccio una premessa, chiaramente ieri sera ho visto la partita del mio Bari e mi viene spontaneo fare questa riflessione. Vabbè, chiaramente chi ha seguito la partita ieri, almeno all'inizio, era tutto un inno al Milan, perché chiaramente c'era la grande squadra, Ronaldinho doveva dirci qualcosa e quindi sembrava tutto un senso unico. Poi per fortuna la partita ha detto ben altro, e su questo mi viene spontaneo, a 45 anni, tra l'altro ho anche giocato nelle giovanili del mio Bari, fare questa riflessione. E non credete che il calcio debba realmente voltare pagina, mettere da parte un attimino questi grossi nomi, queste grosse cifre, e cominciare a guardare anche alle piccole squadre e aiutarle anche economicamente, perché poi alla fine in queste giornate vediamo che sono le piccole squadre che stanno facendo spettacolo. No, non lo credo, sinceramente. Non credo che ciascuno debba fare il suo cammino e debba fare il passo secondo la sua gamba. Non possiamo scoprire oggi nel 2009 che il calcio in provincia è più sano ed è più formativo ed è più interessante da seguire, perché chi il calcio lo ama lo ha sempre saputo. Nella grande città, nella grande squadra ci sono altre esigenze, ci sono esigenze di cassetta, di richiamo, di marketing, che sono continuamente peggiorate si sono moltiplicate in questi anni, e ciascuno è giusto che faccia la sua strada e il suo percorso. Semmai bisogna andare verso un calcio sempre meno slivellato, questo sì. Credo che tra un po', se non la stortano, dovrebbe entrare in vigore quella famosa legge Melandri sui diritti televisivi, per cui c'è una ripartizione diversa che dovrebbe ridurre la forbice tra grandi e piccole. Però se lei, che è tifoso del Bari e che ha anche giocato nel Bari, se il Milan continua, se il Bari ha avuto il coraggio e la scelta, anche perché stava in Serie B, eccetera, di puntare sui giovani, di costruire una squadra nuova sui giovani, tra l'altro molti di grande interesse, alcuni di talento vero, e il Milan invece continua a insistere su Ronaldinho, ma lei dovrebbe essere molto contento, no? Che i telecronisti continuino la loro opera di marketing su Ronaldinho e intanto voi giocate a pallone. Non vedo dove la cosa vi possa danneggiare, anzi. Fabrizio Ancona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senti, io vorrei intervenire a proposito di Mourinho. Posso? Certo. Allora, voi giornalisti, e non mi riferisco a lei ma alla stampa in generale, avete per molto tempo glorificato questo allenatore, ma alla prova dei fatti questo allenatore si sta piano piano gonfiando. A livello tecnico non ha portato nulla, però continua a parlare, a polemizzare e a offendere gli altri allenatori, e non entra mai nel merito delle questioni, ma appunto è bravo a sviare, è bravo sempre a cambiare discorso. La domanda è questa: prima che questo mito crolli da solo, non è opportuno che voi giornalisti nei grandi giornali, così negli editoriali, non smascherate questo bluff prima che questo si smascheri da solo? Fabrizio, ciascuno la pensa come gli pare, ciascuno fa la sua parte. Il personaggio a cui lei si riferisce vive di pubblicità, e sulla pubblicità ha incrementato ulteriormente nella stagione scorsa i suoi guadagni. Io ho l'impressione che facciamo il suo gioco a continuare a inseguire le sue provocazioni. È anche vero che, dato che ogni volta alza il livello, giornalisticamente c'è il dovere di cronaca ad un certo punto. Tra un po', se facciamo in tempo prima di intervallo, potremmo anche sentire per esempio l'ultima prodezza verbale di sabato, che magari le ha dato questo le ha dato il là a questo intervento. Ce l'abbiamo, sentiamo. Sì, è la mia bestia nera, sai perché? Perché io sono stato campione d'Europa con Porto e lui mi ha cambiato, e 15 giorni dopo lo hanno esonerato. È la mia bestia nera, vede bene. No, gioca con... Ok, ha vinto con l'Atalanta, ha perso in San Siro, ha vinto oggi, pareggia domani, perde dopodomani, ma che bestia nera. Bestia nera è il mio assistente José Moraes, che è nero, io una bestia così. Questa è la bestia nera. Se ha detto questo stava zitto da meglio. No, ho detto, se ha detto queste parole, torno a ripetere, non fa confondersi. Se le ha dette vuol dire che era meglio se continuava a stare zitto. Beh, insomma, c'è la differenza tra un galantuomo e poi l'altra etichetta, mettetecela voi, perché poi ci sono molti permalosi in giro sul conto di Mourinho. Per la completezza dell'informazione faccio soltanto notare che bestia nera era stato qualche giornalista a dirlo, per via che anche quest'anno in trasferta la squadra di Del Neri aveva battuto l'Inter, ma mai e poi mai una persona come Del Neri si era permesso di autodefinirsi bestia nera. Ripeto, lui non ne sapeva assolutamente di nulla. Si vergogni, eccolo qua, si vergogni. Ma come, la Juve Genova meritava di vincere? Lei è proprio un servo del potere, che delusione. E allora il rigore di Dovizi ieri, allora il rigore di Dovizi ieri cosa ci picchia c'entra con la valutazione di Genoa-Juve, che è stata una bellissima partita. Il Genoa ha segnato due gol, uno più bello dell'altro, ha fatto un terzo tiro in porta a Sculli, insomma ben parato da Buffon, tre occasioni contro una decina abbondante e insomma, e comunque una superiorità abbastanza netta dall'inizio alla fine. Io credo che bel pareggio, giusto, poteva persino vincere il Genoa alla fine se andava in un certo modo, ma se avesse vinto la Juventus forse sarebbe stato un verdetto più rappresentativo di come era andata la partita. Lo dico vergognandomi, caro ascoltatore, ovviamente anonimo, perché questi fenomeni qui vigliacos si firmano mai, e faccio male io a leggere i loro deliri. Torniamo in onda con altri ascoltatori, altri interventi, altre voci da sentire. Ho qualche dubbio domani sul collegamento con Fabio Tavelli, perché stamane è arrivata Vittoria. Vittoria è la secondogenita di Fabio, che raggiunge la sorellina Alice esattamente a 4 anni di distanza. Non è male, 28 settembre. 4 anni fa Alice, 28 settembre di oggi Vittoria, quindi congratulazioni più vive a Fabio Tavelli, a mamma Laura, e poi vediamo per domani col calcio internazionale come ce la caviamo, in qualche maniera si farà. Daniele ha chiamato da Udine, buongiorno. Buongiorno, sono a Garanzini, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, una domanda veloce, secondo lei l'Udinese quest'anno, dato che non fa le coppe europee, dove potrebbe arrivare? Secondo il suo punto di vista tecnico, vedendo anche i risultati degli ultimi anni. Solo questo. Più o meno lì dov'è, credo, Daniele. Nel senso che con questa doppia impennata con Milan e Genoa, insomma, è risalito, adesso mi pare sia quinto, a 11 punti e a ruota delle grandi, ma insomma mi sembra che l'Udinese sia questa squadra di cui, per carità, andar fieri, perché sono anni ormai che gioca un signor calcio, gioca ad alto livello, che ottiene risultati da buoni e eccellenti, però mi sembra che il salto poi faccia sempre un po' di fatica a farlo, e così a occhio credo che potrebbe andare così anche quest'anno. Magari invece poi sarà un anno diverso e chissà dove arriverà. Io tanto più su di così non credo, credo che tanto alla fine per il campionato sarà un testa a testa tra Inter e Juventus, come abbiamo sempre saputo. Si tratta di vedere le altre quanto riescono ad arrivarci vicino, fino a che punto riescono a non farsi staccare, e chi sono queste altre. Oggi sono la Sampdoria innanzitutto, e semmai poi la Fiorentina. Ma io sono convinto che rientrerà il Genoa, che l'Udinese possa provarci, vediamo quanto. Da Napoli ha chiamato Vincenzo, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Senta, volevo chiedere una cosa riguardo il presidente De Laurentiis ieri. Ma secondo lei ha perso un po' la classe per quello che ha detto su Pierpaolo Marino? Per l'amor di Dio, il presidente De Laurentiis in 5 anni ci ha portato in Europa, ma forse un minimo di grazie a Pierpaolo Marino lo doveva dire, no? Piuttosto che trattarlo in quella maniera, poi davanti alle televisioni, magari certe cose è meglio dirle in privato. Lei dice... Un po' di classe. Sì, no, io non... facevo già fatica prima ad abbinare la parola classe ai comportamenti di De Laurentiis, sinceramente, ma questo poteva essere un problema mio. Direi che dopo ieri ne fa un po' anche lei, per esempio, e quindi effettivamente insomma, si sono visti licenziamenti più signorili, ecco, mettiamola così, magari anche un tantinello più riservati. Tocca a Pietro da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo parlare così velocemente della Roma. C'è stato da qualche domenica il cambio di panchina, volevo sapere se secondo lei si era vista la mano del cambio di panchina. Secondo me non si può dire. Cioè, diciamo, come diceva De Rossi, né carne né pesce, non lo so. Forse è stato sbagliato il cambio, è stata sbagliata la persona messa al suo posto, non lo so. E poi se potevo un'ultima cosa, però lascio rispondere, e volevo ricordare a tutti che Simone fu esonerato da Moratti perché vinceva con la Salernitana ma non giocava bene. Altri allenatori, è sempre all'Inter, sono lì, giocano male, vincono, però stanno lì. Tutto qui per fare un po' di polemica. Grazie mille. Grazie a lei, Pietro. Io credo che la mano di di Ranieri si veda in una maggiore combattività. Mi sembra che negli ultimi tempi Spalletti facesse un po' più di fatica a ottenere una reazione da parte della squadra nelle giornate veramente storte come ieri, a parte che poi ieri ha pareggiato per una svista di un guardarine più che per meriti, ma insomma è successo che abbia rimontato in queste ultime giornate qualche partita ottenendo risultati nel finale che negli ultimi tempi di Spalletti non capitava. Però se parliamo di gioco e di estetica, se mai sta peggiorando, insomma, mi pare, no? Con la sola eccezione di quel primo tempo contro la Fiorentina che era stato oggettivamente splendido, ma mi pare che dal punto di vista qualitativo la squadra si stia un po' autoridimensionando, direi, con Ranieri, e credo che non sia tanto un problema di tecnici quanto un problema di squadra e di pedine abbastanza usurate, insomma, con rarissime eccezioni. Da Lucca ha chiamato Dante, buongiorno. Buongiorno Danzini. Ascolti, io ho chiamato per la sostituzione di Balotelli. Allora, a nessuno è venuto in mente che Balotelli non è stato capace di finire un'azione perché l'hanno picchiato tutta la partita? Un primo. Secondo, se il colpo di testa che ha dato, l'unico, non era fermato con la mano dal difensore, l'Inter aveva vinto. E Mourinho non è che avrà sostituito Balotelli proprio perché non gli facessero l'ennesimo fallo, magari con una reazione dopo tutti addosso a Balotelli perché aveva reagito in malo modo, magari? Pronto? Pronto? Pronto Dante, sì, sono tre domande sinceramente una più inquietante dell'altra, non credo di essere all'altezza di dare una risposta ad alcuna delle tre, perché io sabato sinceramente non ho visto agguati a Balotelli, mi chiedo, continuo a chiedermi perché della sostituzione, ma non credo che sia quello che dice lei. Non ho visto torti arbitrali particolari nella direzione che dice lei, e quindi sinceramente non sono in grado davvero di darle una risposta. Ferrara, potremmo sentire, se ne è parlato prima, il mea culpa di Ferrara dopo questa rimonta finale di ieri del Bologna. E a volte, soprattutto quando c'era qualche fallo a loro favore, siamo stati ingenui perché loro battevano immediatamente le punizioni e noi tardavamo a scappare dietro, e infatti credo Di Vaio si è presentato da solo davanti alla porta, e anche nella circostanza dell'ultimo, cioè del loro pareggio, su una punizione battuta in maniera veloce, non c'era nessuno di noi sulla palla, siamo indietreggiati e abbiamo scalato male sul secondo palo, quindi abbiamo concesso qualche cosa di troppo. Io posso spiegarlo, insomma, posso non dire e giustificarmi, di sicuro forse ho inserito in squadra dei giocatori che era diverso tempo che non giocavano, e quindi forse schierarli tutti insieme può essere stato un problema. Si era già osservato adesso questa è la conferma, in realtà, dalle parole di Ferrara. Molte mail ricevute in mattinata, già nella serata di ieri. Mauro da Imperia dice: secondo me la squadra peggiore oggi è di gran lunga il Milan, ed è una brutta cosa per una squadra che faceva del bel gioco la sua peculiarità. Penso che Leonardo non solo non mangerà il panettone, ma forse non assaggerà nemmeno l'olio nuovo che di solito io ricavo dai miei ulivi, a cominciare dai primi di novembre. Del resto qualcuno dovrà pur pagare per gli sbagli commessi da altri, conclude ironicamente Mauro da Imperia. Sì, sbagli commessi da altri non c'è nessun dubbio in origine. Poi adesso mi pare che anche Leonardo ci sta mettendo del suo, perché sinceramente ieri sera ero abbastanza sbalordito davanti alla TV, per carità, non sul campo, però ero abbastanza sbalordito da come un esterno alto, una volta si chiamava Ala, Abate si sarebbe chiamato Ala d'appoggio una volta, quando secondo me si chiamava le cose col loro nome, ma insomma non ha importanza, non è un problema tra linguaggio antico o moderno. quando un ala d'appoggio come Abate oggi ha il cambio di passo, la freschezza, il dinamismo che tanti suoi compagni di squadra non hanno più, però da metà campo in avanti, cioè fargli fare l'esterno basso come si dice adesso, e cioè il terzin come direbbe Bagnoli ieri su Rivas, che su 5 volte su 5 l'ha puntato e l'ha sempre mandato e ha sempre messo la palla in mezzo, beh insomma, cioè, sembra che poi sia colpa di Abate, ma Abate va spostato dopo, da un allenatore in grado di distinguere, va spostato dopo pochi minuti, insomma poi non so se deve entrare Odo, se si allarga Nesta, se qualcuno, però sinceramente non è l'unica di ieri sera di Leonardo, ma quella mi è sembrata particolarmente imbarazzante. Claudio ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dica. Solo una sottolineatura, magari ci ho fatto caso solo io, al fatto che tanti allenatori hanno ieri con la dichiarazione abbassato molto i toni rispetto a sabato sera, qualcuno che invece li aveva fomentati per nulla. Che non sia una presa di distanza da certi fenomeni di allenatori che magari è ora di far silenzio. No. Ma io non credo che sia nemmeno un fenomeno inedito questo. Io rilevo mediamente da parte degli allenatori italiani un livello di educazione eccellente. Le polemiche gratuite, le aggressioni verbali gratuite, pretestuose, non mi pare facciano parte del loro bagaglio, del loro repertorio. Poi non saranno dei fenomeni alcuni di loro, no? Come invece quelli che arrivano a insegnarci il verbo calcistico, però mediamente mi sembrano molto, ma molto più educati, più rispettosi soprattutto degli altri, meno gratuiti, meno sgarbiani, non so, veda lei l'etichetta che preferisce. Arriverà Spalletti al Milan, domanda Manu, non ho idea Manu, ma se arriva un altro anno però, perché Spalletti quest'anno una squadra in Italia era già allenata, quindi non può certamente nella stessa stagione per problemi di regolamento. Allenare un'altra società. Abbiamo ancora qualche voce da ascoltare, ma dobbiamo soprattutto ripassare la storia. Sembra ieri affidato come sempre a Nicola Filippone. Sembra ieri. 28 settembre 1969, terza giornata di campionato. All'Olimpico la neopromossa Lazio batte a sorpresa il Milan campione d'Europa per 1-0. Il gol partita porta la firma di un centravanti di 22 anni alla seconda presenza in Serie A, una scommessa del tecnico argentino Juan Carlos Lorenzo. È Giorgio Chinaglia che si era messo in luce in Serie C con la maglia dell'Inter Napoli. Per Chinaglia si tratta della prima rete in campionato. In 7 stagioni alla Lazio ne segnerà 98, che diventano 123 considerando anche le realizzazioni nelle coppe. Solo Silvio Piola e Beppe Signori hanno fatto meglio di lui in maglia biancoceleste. In un campionato a 16 con 3 retrocessioni, questo Milan rischierebbe, scrive Mauro da Pordenone, esagerando, perché comunque... Ci sono squadre che insomma, si è già visto sin da ora, le 3-4 che sono staccate sul fondo, direi meno il Siena, ma le altre 3 e qualcun'altra che insomma hanno proprio dei limiti d'organico molto, ma molto più molto più grandi del Milan. Il Milan ha dei limiti soprattutto dinamici, direi, e poi di convinzione. Cioè, è chiaro che queste annate rischiano di degenerare, ma non credo fino a quel punto, insomma. Da Pavia ha chiamato Carlo, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, telefonavo per farle una critica su quello che mi sembra un poco obiettivo il giudizio che lei ha dato prima. Quando ha chiamato un radioascoltatore, lei ha risposto dicendo che non notava particolari torti subiti dall'Inter nella partita con la Samp. Allora, io vorrei che lei mi spiegasse come faceva ai tempi a sostenere che il colpo di testa, braccio di Adriano era sicuramente da annullare, mentre il fallo di mano fatto dal difensore della Samp non sia da rigore. Carlo, non sono abbastanza esperto di Moviola per poterla soddisfare. Dico soltanto che tra i tanti casi arbitrali, o comunque tra i tanti episodi valutati in maniera sbagliato in qualche caso, discutibile in questo, in qualche altro, di questa giornata non mi sembra che quello che è successo a Marassi sia, sia stato particolarmente significativo. Mi sembra che gli episodi, ripeto, discutibili siano avvenuti su altri campi, e mi sembra che dal punto di vista arbitrale, beh, tutto è filato liscio ieri sera a San Siro, anche per merito del, secondo me, miglior arbitraggio dell'anno, Brighi di Cesena ieri sera a San Siro, e non mi sembra che nulla di particolare, nonostante la partita fosse molto più calda, molto più tirata, molto più sentita, sia successo a Genova. È successo su altri campi. Poi io so di non darle soddisfazioni in questo modo, ma quel poco che ho visto, questo mi suggerisce, e questo mi fa dire. Dopodiché, senza possibilità da parte mia di cambiare opinione. Roberto Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo fare una domanda sulla Juventus. Secondo lei Ferraro non è troppo amico dei giocatori, di conseguenza è poco ascoltato? Non so se questa possa essere la chiave. Quando si dice che come per esempio ha detto Gasperini, no? Quest'anno, come ha detto in estate, quando si dice che l'allenatore è molto giovane, l'allenatore senza esperienza, rischia perché non ha, per l'appunto, quello che si, in termini più eleganti si chiama background, lo chiama esperienza, perché gli manca qualcosa, perché anche questo perché ci può stare, in effetti. I rapporti di Leonardo con alcuni giocatori del Milan, i rapporti soprattutto di Ferrara con alcuni giocatori della Juventus, può essere, tutto ci sta. A me sembra che con quelli più di vecchia data, Ferrara finora, a quelli più di vecchia data, grandi sconti non ne abbia fatti. Parlo di Del Piero, parlo anche dello stesso Trezeguet, parlo di altri ancora, quindi si può discutere, ma può darsi che ci sia anche questo problema. Ci sono un paio di agenzie sulla testa del tifoso che mi sembrano significative. Una è questa. Dunque, il segretario dell'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive ha detto che stamane che la testa del tifoso non è obbligatoria, ma è una facoltà per i tifosi e un'opportunità per le società sportive. Chi non vuole la tessera, ha detto appunto il segretario dell'osservatorio, potrà sempre acquistare il biglietto normale con le limitazioni previste. Con la tessera però il tifoso potrà avere più attenzione da parte della società. Ma allora sta tessera è obbligatoria o no? Che non si riesce più a capire, perché per il ministro è obbligatorio, per il segretario dell'osservatorio no. Vediamo cosa dice il presidente federale Abete. Dice stamattina: la vera rivoluzione culturale non è la tessera del tifoso, ma il biglietto nominativo. La tessera diventa un'opportunità. Una volta che c'è il biglietto nominativo, la tessera non deve essere vista, ha continuato Abete, come un'obbligatorietà, ma come una opportunità, perché consentirà di seguire la propria squadra nel settore ospiti anche dove ci fossero prescrizioni. Rimarrà la possibilità per chi non ha la tessera di seguire la propria squadra dove non ci siano prescrizioni, e quindi cerchiamo di comunicarlo bene. Il primo obiettivo è di ricreare un clima di serenità. Secondo me il primo obiettivo sarebbe quello di capirci qualcosa. Proveremo nei giorni prossimi con l'aiuto di Marco Bellinazzo. Enzo da Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. Senta, io volevo parlare in merito a quello che ha fatto ieri il Presidente. Purtroppo noi, il nostro Presidente sicuramente metterà i soldi, perché giustamente ci ha rilevato dalla Serie C e tutto, però penso che incappi ogni tanto in qualche gaffe, tra cui quella dell'anno scorso, che è stata quella di sedersi in panchina e che lui diceva che doveva capire. Non ho mai visto un Presidente che si siede in panchina. E poi in diretta a De Marino, dove poi ha svelato delle cose che lui già sapeva. Allora se le poteva pure risparmiare, chiamarsi in disparte Marino e magari Silurala, anche perché l'attuale allenatore che abbiamo l'ha scelto lui. Certo. Tra cui alcuni giocatori che lui dice che sono stati sopravvalutati come prezzo. Dato lo gioca perché è lui che lo vuole far giocare, perché dice che l'ha pagato 8-9 milioni di euro, e facendo andare via Mannini, Vitale, Rullo, cioè noi a sinistra siamo scoperti e non abbiamo un'identità di gioco. Se lei mi dà qualche spiegazione la ringrazio. No, io non sono assolutamente in grado, la chieda agli interessati. Io posso soltanto condividere la prima parte del suo intervento, perché tra l'altro un uomo di cinema che evidentemente insomma con lo spettacolo qualcosa ha a che fare, anzi dovrebbe essere un maestro da questo punto di vista, ieri veramente ha girato, vabbè che lui è di cinepanettone, ha girato un cinepanettone di terzo livello proprio ieri, non c'è dubbio. Pasquale da Bari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo soltanto fare un appunto a quel tifoso dell'Inter che ha chiamato perché c'erano dei torti contro l'Inter. Secondo me grossi torti non ce n'erano, se in qualche modo era indirizzata la partita, era indirizzata a favore dell'Inter per alcuni falli che c'erano stati, diciamo giudicati in maniera un po' così. E poi invece per il Milan volevo dirle che io non ero d'accordo sul ruolo di Abate a terzino, cioè nel senso che secondo me era uno dei pochi terzini che poteva avere il passo degli esterni del Bari. Sì, peccato che ogni volta che ha provato ad affrontare quella bestia di Rivas sia puntualmente stato saltato, dribblato o quell'altro abbia crossato, insomma. Grazie Pasquale, grazie a tutti gli intervenuti oggi, ricominciamo domani regolarmente alle 2. Dopo aver ringraziato Filippo Auregge e Laura Vanossi, vi lascio al Giornale Radio.